that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. Ciao a tutte e tutti, sta per iniziare I nomi delle cose, la trasmissione a cura della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione di oggi la dedichiamo a un incontro racconto dell'esperienza dei lavoratori e delle lavoratrici organizzate ad ACE Informatica. Sono qua con noi Barbara e Lori che ci aiuteranno a raccontare questa esperienza. Prima di iniziare volevamo fare un piccolo accenno a quello che è successo a Parigi con l'uccisione di un compagno di 19 anni di un collettivo di scienze politiche, un compagno antifascista ucciso dai fascisti in occasione di questi giorni in cui, a causa dell'approvazione delle nozze tra omosessuali, diciamo che appunto i fascisti francesi cominciano a prendere terreno. Infatti nel comunicato che loro hanno, i compagni di Clément, hanno scritto, fanno anche una, diciamo, piccola cronistoria di tutte le aggressioni che si stanno susseguendo in questi giorni. Noi volevamo cogliere questa occasione per ribadire un po' il concetto per cui, perché il femminismo è anche antifascismo, cioè se noi riteniamo, insomma, che il fascismo fascismo sia un'ideologia che la borghesia e il sistema utilizzano nei momenti di crisi in cui è in difficoltà. Quindi, come anche lo stesso Gramsci diceva in occasione della rivoluzione fascista, che lui non intendeva come tale, nel senso che appunto il fascismo non è mai rivoluzionario, perché non avviene un cambiamento di classe, non è una nuova classe che fonda uno Stato e un nuovo sistema, ma è proprio sempre la classe che è già al potere che, diciamo, inasprisce e ribadisce le gerarchie. Per questo, quindi, secondo noi l'antifascismo non deve necessariamente andare insieme all'anticapitalismo e al femminismo, perché appunto non ribadisce soltanto la subalternità tra le classi, ma ribadisce proprio la struttura, la divisione, diciamo, dei ruoli nella società, e quindi tutte quelle gerarchie che passano anche attraverso le gerarchie sessuali, razziali e quindi anche sociali. Allora, come dicevamo all'inizio, oggi siamo in trasmissione con delle lavoratrici della Cinformatica, e volevamo iniziare questo confronto con loro commentando l'accordo stipulato tra i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL e la Confindustria per quanto riguarda la rappresentanza sindacale. E accenniamo diciamo brevemente a quelle che sono le direttive di questo accordo, che prevede per rappresentanza e quindi anche la firma dei contratti collettivi nazionali una serie di norme che, come vedremo, porteranno, diciamo, alla rappresentatività solamente dei sindacati confederali. Sì, diciamo che già attualmente le firme dei contratti nazionali delle varie categorie non è che sono aperti a tutti, cioè tutta una serie di sindacati di base non vengono manco accettati al tavolo di trattative, cioè la controparte non li riconosce proprio come soggetto con cui trattare, diciamo. E comunque diciamo questo testo restringe sempre di più la possibilità per i sindacati non allineati di andare a trattare argomenti relativi alla vita di lavoratrici e lavoratori, perché intanto in prima battuta potrà andare a firmare il contratto nazionale di categoria il sindacato maggiormente rappresentativo. E come si conteggerà questa rappresentatività all'interno della categoria? Allora, il 50% di questo totale verrà conteggiato in base al numero di deleghe sindacali che vengono fatte dai lavoratori e dalle lavoratrici nei posti di lavoro, insomma le trattenute sindacali in busta paga che l'INPS comunicherà. Peccato che già oggi di fatto le aziende non riconoscano le trattenute sindacali ai sindacati di base, le vengono effettuate solo per CGIL, CISL e UIL, e quindi i lavoratori e le lavoratrici che aderiscono ai sindacati di base non verranno proprio conteggiati, perché quelle trattenute non esistono di fatto. L'altro 50% di questa rappresentatività verrà diciamo estrapolata dalle risultanze delle votazioni per le rappresentanze sindacali unitarie all'interno delle aziende. Peccato che l'accordo dice che verranno conteggiate solo di quelle di CGL, CISL e UIL, quindi voi capite bene che il numero è lievemente falsato. Poi, considerando com'è la composizione del già oggi delle RSU, in cui ricordiamo che da accordo il 33% dei seggi vengono assegnati automaticamente a CGL, CISL e UIL, voi capite che cioè di cosa stiamo parlando. Di fatto questa in questo accordo ci si aspettava ci si aspettavano delle restrizioni proprio a livello di votazioni delle RSU. Per ora non c'è stato, bisognerà ovviamente vedere come nelle varie categorie verrà ampliato e verrà dato seguito a questo accordo, perché poi questi accordi vengono recepiti nei contratti nazionali e quindi in quel momento vedremo come si evolverà la situazione. Sì, altra cosa, diciamo, riflessione che deriva da questo accordo e diciamo che rappresenta uno dei punti più scabrosi. riguarda la possibilità poi dei lavoratori di scioperare. Infatti diciamo che attraverso l'accordo le organizzazioni sindacali firmeranno dei contratti che verranno siglati e quindi verranno considerati come efficaci ed esigibili. L'accordo quindi costituirà un atto vincolante per entrambe le parti. Conseguentemente quindi le parti firmatarie, si dice appunto nell'accordo, si impegneranno a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti. Naturalmente questo la possibilità, diciamo, di rinunciare al diritto di sciopero non è così facile, nel senso, anche se sicuramente un accordo tra le parti, quello che possono essere appunto i sindacati in questo caso, non può disporre di un diritto dei lavoratori che è anche sancito in Costituzione. D'altra parte i sindacati ci hanno sempre un po' provato, perché anche nel 2008-2009 si erano messi a firmare per esempio quell'accordo, quel protocollo anticortei che vietava le manifestazioni nel centro, no? Anche lì avevano firmato soltanto i sindacati confederali a nome di chiunque, a quel punto proprio i manifestanti in generale, anche non lavoratori, per disporre di un diritto inalienabile come quello di riunione, cioè indisponibile. Sì, infatti quello che ci si aspetta, ovviamente non è che ne siamo felici, ma che sarà forse probabilmente la conseguenza naturale di questo accordo, sarà che troveranno, diciamo, il modo per imbrigliare appunto il diritto di sciopero attraverso una legge. Ci si aspetta quello, perché da un accordo tra le parti ovviamente non si può esigere da parti intanto che non firmano quell'accordo, quindi cioè, so cavoli di chi firma quell'accordo poi dagli eseguito le parti che non l'hanno firmato. Poi è anche divertente leggere che le parti si impegnano a non scioperare sugli argomenti su cui si è trovato l'accordo, che ci si chiede perché un'azienda dovrebbe, no, andare contro un accordo che è a suo vantaggio, insomma. Infatti questo accordo è stato salutato con grandissimo favore non soltanto dai grandi sindacati, tra cui anche la FIOM, perché mi sembra che Landini non abbia opposto nessuna eccezione alle, esatto, cose che vengono sancite con questo accordo. Napolitano l'ha salutato come un accordo di importanza storica, eccetera eccetera. Gli unici che hanno detto, insomma, hanno fatto uscire fuori le magagne di questo accordo sono proprio i sindacati di base. Beh, perché vengono di fatto estromessi da qualunque tipo di contrattazione, già di fatto lo erano, eh. Poi vengono riconosciuti i sindacati di base nelle aziende dove interessa fare questo, dove magari il sindacato di base tal dei tali si rende strumento anche lì di sopire le lotte di lavoratrici e lavoratori, altrimenti di fatto non vengono riconosciuti, insomma, nella maggior parte delle aziende. parlando di rappresentanza sindacale, volevamo, diciamo, introdurre quella che è la situazione all'interno di ACI Informatica, che è una situazione totalmente anomala, in senso positivo naturalmente, e legandoci a quello che dicevamo prima, volevamo, ecco, intanto capire con Barbara qual è la composizione dell'RSU all'interno dell'azienda. Sì, allora intanto, vabbè, noi siamo un'azienda con contratto dei metalmeccanici, quindi siamo lavoratrici e lavoratori privati, però un'azienda in house, cioè siamo proprietà al 100% dell'ACI, che è pubblica amministrazione, quindi abbiamo una situazione un po' mista. E niente, diciamo che ACI Informatica è un'azienda dove, da quando è stata fondata nel 76, si è sviluppato proprio una modalità di vivere l'azienda da parte di lavoratrici e lavoratori molto diversa da altre parti. Nel 76 molte aziende erano come eravamo noi nel 76, poi le cose sono cambiate. Da noi, per vari fattori interni e esterni, siamo riusciti a mantenere comunque una situazione, diciamo, di gestione auto-organizzata effettivamente delle questioni sindacali politiche, perché poi comunque da noi si è sempre avuto una doppia attenzione, non soltanto alle condizioni di lavoro interna ad ACI Informatica, ma l'abbiamo sempre legate ovviamente al contesto esterno e quindi allo sviluppo di iniziative, dibattiti e tutto quanto che riguardassero il mondo del lavoro e non solo. Ad esempio, per farvi capire com'è la situazione da noi la RSU è composta da 10 delegati, di cui 8 siamo noi della lista auto-organizzata e 2 della FIOM CGL. Appunto, come dicevamo prima, l'accordo per la rappresentanza sindacale prevede che il 33% dei seggi vengano automaticamente assegnati a CGL, CISL e UIL, a prescindere da come vada la votazione tra lavoratori. Da noi questa cosa non è mai avvenuta, perché di fatto i lavoratori non la permetterebbero, cioè alla fine tutte queste normative che riguardano e sono poi normate da accordi tra le parti vanno, diciamo, scavalcate dal rapporto di forza che c'è in un posto di lavoro. E oggettivamente da noi il tipo di cultura, di livello, diciamo, di consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori permette che non ci siano incursioni esterne o imposizioni, e che la RSU venga eletta effettivamente in base ai voti che prende ogni delegato, insomma. E niente, appunto, noi da poco abbiamo affrontato una lotta molto, molto dura, molto difficile, che è durata da ottobre fino a maggio, l'abbiamo conclusa da poco, e in cui possiamo dire di aver raggiunto, insomma, ottimi risultati. Io non so se volete racconto la vicenda, e in realtà comincio semplicemente da un po' prima, cioè da luglio scorso, in cui il governo Monti ha varato la famosissima spending review, che tutti conosciamo perché ha multiformi aspetti. Per quanto riguarda l'azienda ACI Informatica, ne è stata investita in quanto società in house, in quanto la spending review prevedeva la chiusura o la vendita a privati di queste società. A cosa serviva questo? A liberalizzare tutto un settore di lavoro che liberalizzato non era, che privato non era, che non permetteva, diciamo, l'ingresso di capitali privati, perché legato alla pubblica amministrazione. Noi già da lì, a luglio scorso, abbiamo fatto un bel presidio sotto il Senato, peraltro cercando di contattare altri lavoratori di altre società in house, per cercare di compattare i lavoratori e le lavoratrici dello stesso settore. Siamo riusciti a far modificare la legge, nel senso che non c'era più l'obbligatorietà di fatto. Perché mi leggo a questo? Perché dopo questo evento, a ottobre, la nostra direzione ha deciso di disdettare tutti gli accordi integrativi aziendali che noi abbiamo. Le due cose sono assolutamente strettamente legate, perché le due cose servono entrambe a fare un uso privato dell'azienda, perché un'azienda come la nostra, dove i nostri accordi integrativi ci permettono di avere il 20-30% di salario in più rispetto al contratto nazionale, lavorare 36 ore invece di 40 a parità di salario, come se ne lavorassimo 40, con tutta una serie di miglioramenti dal punto di vista dei permessi salute, dei permessi per maternità, abbiamo anche del welfare aziendale, abbiamo veramente tanti accordi integrativi. È difficilmente vendibile, no? Al mercato, e quindi questa disdetta serviva assolutamente per fare un uso privatistico di ACI Informatica. E noi a quel punto ovviamente non abbiamo accettato questa cosa. Abbiamo cominciato la nostra lotta prima di tutto presentando una contropiattaforma integrativa per andare a migliorare di più le nostre condizioni lavorative. Il tipo di lotta che abbiamo utilizzato da noi è stato sicuramente come principale strumento lo sciopero, in cui noi assolutamente crediamo, perché il blocco della produzione è la cosa che fa spostare l'asse di fatto della lotta. E però, essendo una lotta lunga e difficile, noi lo sapevamo, e quindi abbiamo deciso di articolare gli scioperi in una maniera un po' particolare, intanto bloccando tutte le attività che erano fuori orario di lavoro, quindi col blocco degli straordinari, delle trasferte, quindi non si potevano effettuare lavorazioni straordinarie fuori orario di lavoro. In più abbiamo messo in sciopero solo alcuni settori dell'azienda, che erano quelli che in quel momento avevano l'importanza primaria, e questo si può fare se si conosce effettivamente il ciclo produttivo della propria azienda, che è una cosa importante che le lavoratrici e i lavoratori sappiano come funziona la propria azienda, perché così possono intervenire. E questa cosa non è che l'abbiamo fatta noi come RSU, l'abbiamo fatta in collaborazione con tutte le lavoratrici e i lavoratori di ACI Informatica. E questa cosa, infatti, anche di mandare in sciopero soltanto dei comparti, così, no, quelli più strategici ai fini della produzione in quel momento, è possibile anche se però tra i lavoratori ci sono dei meccanismi di distribuzione, del costo degli scioperi, no? Certo, esatto. Infatti noi ovviamente abbiamo messo in sciopero solo dei reparti, dopodiché non è che quei lavoratori hanno pagato per intero lo sciopero. Sì, abbiamo calcolato quanto costava quello sciopero, l'abbiamo ridiviso fra tutte le lavoratrici e i lavoratori, che quindi hanno riversato a quelli che erano stati in sciopero la loro quota, e di modo che l'abbiamo pagata tutti uguali quello sciopero. Abbiamo risparmiato e siamo riusciti in un primo momento a raggiungere un accordo intermedio che sospendeva la disdetta degli accordi e apriva un tavolo di confronto per parlare della condizione economica di ACI Informatica, che oggettivamente non era positiva, in quanto il nostro ente proprietario, che è l'ACI, non navigava in buonissime acque, aveva il problema di non poter chiudere il bilancio in negativo per 2 anni consecutivi, altrimenti rischiava il commissariamento, e quindi di conseguenza dava alle aziende collegate, tra cui noi, meno soldi per compiere lo stesso lavoro che facevamo dall'anno prima. A quel punto quindi abbiamo avviato questo tavolo di confronto, e lì è cominciata la vera partita a scacchi, perché noi siamo andati con tutte le migliori intenzioni a ricercare un'alternativa diversa da quella che fosse colpire lavoratrici e lavoratori di questa problematica economica che lavoratrici e lavoratori non avevano assolutamente causato. Peraltro, apro una parentesi, noi abbiamo studiato bilanci dell'ACI, delle società collegate, abbiamo pubblicato tutta una serie di dossier sull'ente ACI e su come ha gestito i soldi negli anni, da cui si evidenzia appunto che lavoratrici e lavoratori con la crisi dell'ente non c'entrano nulla. E quindi noi, studiando proprio il bilancio di ACI Informatica, avevamo individuato tutta una serie di parti dove si poteva recuperare questi soldi. L'azienda di contro chiedeva semplicemente, invece di tagliare il costo del lavoro, quindi i salari nostri, per 3 milioni quest'anno e 3 milioni l'anno prossimo, quindi in tutto 6 milioni di taglio al costo del lavoro, che prevedeva una decurtazione di 9.000 euro sullo stipendio nostro, di tutti quanti. E quindi noi abbiamo continuato gli incontri, l'azienda continuò a ripetere sempre in continuazione che voleva solo i soldi da noi, noi con proposte di dei più svariati tipi, fino a che, siccome la direzione vedeva che non si sbloccava la situazione, ha cercato di portare fuori il confronto e convocare un incontro all'Unione Industriali. Cioè, noi fino a quel momento avevamo gestito la cosa internamente, l'azienda ha provato a portarla fuori, Perché? Perché all'Unione Industriali sperava di trovare dei sindacati complici esterni che riuscissero a imporre ai lavoratori della Cinformatica un accordo che non li riguardava, insomma. Anche perché il vostro presidente De Vita è una personalità di tutto rispetto, no? E come no, è presidente dell'Unione Petrolifera, sta dentro Confindustria Energia, insomma, non è uno, poi c'ha 83 anni, insomma, potrebbe andare anche a godersi i soldi altrove, invece lui rimane attaccato proprio a quello che ha, tra cui appunto essere presidente di ACI Informatica, insomma. E niente, all'Unione Industriali gli è andata male. Effettivamente si è presentato un personaggio della CISL, che peraltro da noi, appunto, come dicevo prima, la CISL nemmeno c'è, che ha detto che era stato convocato dall'azienda e quindi era venuto a sentire cosa aveva da dire l'azienda. A quel punto, siccome noi avevamo chiamato un presidio di tutti i lavoratori nostri fuori dall'Unione Industriali, noi gli abbiamo detto: guarda, vai a parlare con i lavoratori nostri che stanno fuori, che erano circa 300, se loro ti danno mandato puoi rimanere all'incontro, perché noi in azienda decidiamo tutto in assemblea, cioè per noi tutti gli accordi, tutti i passaggi, tutte le cose, noi li affrontiamo collettivamente, quindi chi partecipa all'assemblea decide quello che sarà il suo futuro. E questa cosa è importante, cioè questo è il vero spirito dell'auto-organizzazione, quello di, diciamo, riportare la responsabilità della propria vita e della propria esistenza, anche lavorativa, su se stessi, di scegliere per se stessi. E allora questo personaggio della CISL ci ha detto: ah, perché quei lavoratori sono vostri? E noi abbiamo detto: sì, vabbè, allora vado via, perché non ha molto senso che per me stare qui. Ecco, quindi questo per farvi capire. Quindi all'Unione Industriale gli è andata male e quindi l'azienda ha rilanciato di nuovo e ci ha portato al Ministero del Lavoro. Questo anche perché sperava che ci fosse un ente terzo come il Ministero del Lavoro, che peraltro dovrebbe stare dalla parte dei lavoratori, cioè il Ministero del Lavoro, la sua funzione è quella di evitare la disoccupazione e quindi di trovare delle soluzioni, e sperava appunto che il Ministero del Lavoro sancisse un mancato accordo, cioè che non c'era proprio modo di trovare un accordo tra le parti e quindi l'accordo intermedio che avevamo fatto a dicembre saltava e quindi i nostri accordi integrativi erano disdetti tutti quanti. Anche lì noi, con sempre presidi chiamati sotto il Ministero del Lavoro con una partecipazione del 90%, perché badate bene, queste cose uno riesce a farle anche perché da noi l'adesione agli scioperi e alle iniziative è del 90% della forza lavoro, quindi è quello che fa poi la differenza. E anche quindi sia i lavoratori sotto in presidio sia la RSU, noi ci siamo presentati con delle proposte concrete, ci siamo presentati seriamente, non rifiutando di vedere che ci fosse un problema economico, e il Ministero del Lavoro non ha potuto che prendere atto che la situazione era diversa da quella che gli aveva presentato l'azienda, e quindi dopo 3 incontri siamo riusciti a riportare l'azienda in loco, in azienda, abbiamo ripreso le trattative, poi c'è stato, sembrava che si fosse risolto tutto, invece a un certo punto l'azienda ha tirato fuori che non avevamo capito male, insomma, che è risaltato di nuovo tutto. A quel punto diciamo che c'era poco altro da fare che non fare un'assemblea permanente al CED, quindi di fatto occupare l'azienda, e questa cosa è stata decisa in assemblea di tutte le lavoratrici e i lavoratori, abbiamo deciso di occupare fino a che non si fosse trovata una soluzione. E a quel punto, diciamo, è stata una giornata molto particolare, perché c'erano tutti i lavoratori che si sono gestiti l'assemblea permanente al CED da soli, senza noi delegati che stavamo su a trattare con l'azienda. Come si raggiungeva un certo obiettivo, noi scendevamo, comunicavamo a tutti i lavoratori, si decideva tutti insieme come riportare, se ci andava bene, se non ci andava bene, e quindi dopo una giornata concitata così finalmente siamo riusciti a trovare l'accordo. E niente, di fatto ci sarà una decurtazione sul costo del lavoro, ma intanto che riguarderà solo quest'anno, per meno di un terzo di quello che aveva chiesto l'azienda, ma non solo, per quest'anno andrà così, l'anno prossimo le cose rimangono uguali, ma dal 2015 noi avremo anche un aumento di stipendio, perché siamo riusciti a far passare anche le richieste che avevamo inserito nella nostra piattaforma integrativa. Quindi avremo un aumento di stipendio fisso in busta paga, che peraltro secondo l'accordo tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria non è possibile in un accordo integrativo aziendale concordare degli aumenti fissi in busta paga, e invece non l'abbiamo fatto. E questo io ripeto che quello che c'è scritto in un accordo tra le parti, volendo, si può superare quel rapporto di forza che un posto di lavoro esprime dal punto di vista della forza dei lavoratori. Quindi noi siamo riusciti a ottenere questo, siamo riusciti a ottenere un una tantum che ci risarcisse, diciamo, del taglio di quest'anno, e quindi di fatto questa alla fine la piattaforma integrativa, che dura 4 anni, nei 4 anni noi recuperiamo quello che sarà il taglio che ci verrà fatto quest'anno, che non sarà facile da sopportare ovviamente, tant'è che noi abbiamo deciso comunque di attivare una cassa di solidarietà tra tutti i lavoratori, perché ci può essere il lavoratore che sta in una condizione migliore, uno che sta in una condizione peggiore, quindi abbiamo deciso anche in questo caso di, diciamo, collettivizzare le perdite, e se c'è qualche lavoratore che ha bisogno del supporto degli altri verrà aiutato, insomma, per gestire questo taglio al costo del lavoro. Proprio a quest'ultimo riguardo avevate anche chiesto per il funzionamento di questa cassa di sostegno all'azienda di detrarre direttamente dalle buste paga i soldi che ovviamente... Sì, ovviamente l'autorizzazione del lavoratore che sceglieva, certo, di aderire. Noi abbiamo chiesto all'azienda appunto che facesse come appunto si fa con le trattenute sindacali, no? Esatto, e l'azienda proprio oggi ci ha risposto di no, che non aderisce a questa iniziativa, ma dimostrando una volta di più che è veramente contro i lavoratori. Ma queste cose, cioè, noi da una parte la ringraziamo pure l'azienda, che ogni volta non smentisce mai, diciamo, la sua natura di controparte vera, reale, perché ricordiamoci sempre che, cioè, i lavoratori stanno da una parte e i padroni stanno dall'altra, è sempre così. All'inizio, diciamo, del racconto di Barbara, appunto si faceva riferimento al percorso intrapreso con le altre società in house, e volevamo ricordare il fatto che come in questo caso, ma anche precedentemente, i lavoratori e le lavoratrici di ACI Informatica sono sempre stati aperti, attenti e partecipi di altre situazioni lavorative. Sì, no, infatti c'è sempre una certa attenzione appunto da parte di tutti quanti, proprio in generale sulle vertenze del mondo del lavoro. Noi abbiamo supportato le lotte delle lavoratrici e lavoratori di Leroy Merlin Porta di Roma, delle lavoratrici e lavoratori delle pulizie della Sapienza, ma proprio partecipando ai loro presidi, ai loro scioperi, facendo delle assemblee anche tra lavoratori e lavoratrici di aziende diverse, proprio per cercare questo filo rosso che unisce i proletari e le proletarie, che è il fatto di dover diciamo vendere la propria forza lavoro. È la condizione che ci accomuna tutti, e sicuramente per esempio nel caso della, come dicevo a luglio, della spending review, il fatto di essere riusciti a contattare altre aziende che erano nella stessa nostra condizione ci ha permesso comunque di fare una pressione maggiore nei confronti dei senatori e delle senatrici che stavano lì promulgando la legge. E peraltro poi in quel caso si è avviato anche un percorso di confronto, quindi con delle riunioni fisse tra lavoratrici e lavoratori di queste varie aziende, e peraltro anche da parte di queste altre persone vedere il nostro metodo di lavoro e di lottare serve anche per diciamo espandere queste modalità un po' diverse, che non sono quelle della delega verso un soggetto esterno, che può essere un sindacato di qualunque tipo. Invece, al contrario, quello di auto-organizzarsi e di gestirsi la propria condizione di vita, insomma. Infatti serve anche a passarsi dell'esperienza, no? E un po' a farsi delle idee, perché poi voi siete stati, cioè avete sempre usato tutti gli strumenti a vostra disposizione, ma anche nelle iniziative aziendali che avete fatto, tipo i cortei interni o comunque così, no? Avete un po' attivato l'immaginazione, cioè come... Sì, noi abbiamo abbastanza cose, abbastanza non le cose, le solite standard, insomma. Abbiamo fatto sia con cortei interni all'azienda che nel quartiere, abbiamo anche fatto delle iniziative per farci conoscere, come ad esempio la distribuzione dei pacchi di Natale che danno in azienda, vengono dati a delle famiglie di occupanti al lavoro, quelle sì, esatto. E poi diciamo anche nei tipi di scioperi che si fanno a scacchiera, magari ogni reparto scioperava un'ora, poi rientrava un altro e ne usciva un altro, di modo da pesare meno possibile sul salario di ognuno, ma essere il più efficaci possibili sull'interruzione della produzione, ecco. Da un punto di vista invece proprio ludico, volevamo volevamo invece raccontarvi comunque altre iniziative che i lavoratori e le lavoratrici di ACI Informatica organizzano, e che comunque sono il frutto di un percorso collettivo che porta poi anche a saper gestire il tempo e gli spazi appunto collettivamente. E proprio la settimana scorsa ho partecipato al concerto dei lavoratori e delle lavoratrici di ACI Informatica, che a parte bravissimi preparatissimi, diciamo che quello che colpisce è che ogni momento appunto anche di incontro ludico dà una forza a chi partecipa come esterno, che pensa che possa insomma essere possibile l'organizzazione e la vicinanza tra lavoratori. E quindi non lo so, se vuoi raccontarci un po' quello che vuoi cantarci, cioè, di nuovo la canzone. Oddio, ma noi facciamo varie di queste cose. Mi pare l'anno scorso facemmo organizzammo noi una serata tutta quanta noi alla SNIA, abbiamo cucinato, abbiamo gestito i ragazzini, perché poi ovviamente lavoratrici e lavoratori della informatica stanno crescendo d'età, quindi ci sono nuove generazioni, quindi anche diciamo bisogna tenere conto delle esigenze anche nel tempo libero delle persone, quindi abbiamo organizzato un po' tutto, dalla gestione dei bambini a uno spettacolo teatrale e tutto quanto. E niente, diciamo, noi ogni anno organizziamo attraverso il CRAL di ACI Informatica un concerto, diciamo, di fine anno, così è. E quest'anno per la prima volta tutti i musicisti erano solo di ACI Informatica e niente, è stata un'esperienza bellissima, siamo tutti e tutte casatissime. Infatti ci vediamo venerdì così per andare a festeggiare e per parlare dei progetti futuri, perché siamo lanciati Musicali, verso questo, certo, certo, che non una sensazione che non vi so spiegare. Comunque diciamo il pubblico che il pubblico che poi so gli altri lavoratori e lavoratrici, più amici, parenti e tutto quanto, devo dire che almeno a me personalmente la sensazione che mi ha dato, ma proprio con gli applausi e con, diciamo, il giubilo che arrivava, era come a dire: noi siamo venuti perché vi vogliamo bene, ma non pensavamo che foste così bravi. Cioè, è stato proprio questo, ecco, che... Continuare un po' a parlare di tutto quello che avete fatto da ACI Informatica, volevamo pure ricordare che come lavoratrici avete editato, avete fatto una pubblicazione che ha fatto uscire 19 numeri, si chiama Parlan Donna, che ha un po' affrontato tutti i problemi più di genere all'interno del lavoro, quindi avete spaziato da... le mansioni ricoperte dalle donne all'interno dei luoghi di lavoro, ogni tanto anche non soltanto dentro ACI Informatica, ma prendendo anche dati più in generale sul mondo del lavoro. Avete fatto anche altri numeri su, ad esempio, sui CIE, sui pacchetti sicurezza, insomma avete un po' affrontato la questione di genere. L'ultimo di questi numeri, proprio il 19esimo, l'avete chiamato Socialmente Utili. Ci sono delle cose che mi sono risuonate molto, anche di quello, per quello di cui parliamo sempre. Vi leggo un pezzo e poi ti lascio la parola se vuoi dire qualcosa. Il lavoro è un ambito in cui il ruolo che ci viene imposto è sempre subalterno a quello maschile. Nella distribuzione tra i livelli, le donne sono sempre inquadrate a livelli più bassi rispetto agli uomini e raramente ricoprono ruoli di coordinamento, per non dire posizioni dirigenziali. Il lavoro delle donne è sempre di cura. Le tipologie contrattuali in cui sono maggioritarie, infatti, sono quelle che prevedono un servizio al cliente, ad esempio i call center, perché le donne sono più calme, più gentili, più disponibili, oppure ripercorrono il lavoro di cura all'interno della famiglia, ad esempio svolgendo le pulizie nei posti di lavoro. Mi è piaciuto molto questo inizio proprio perché diciamo il problema delle donne al lavoro non è semplicemente quello di avere parità di accesso nei luoghi di lavoro, no? Quindi avere, diciamo, essere rappresentata al 50% oppure avere una retribuzione che non sia. Queste sono sicuramente delle problematiche, però oggi che l'accesso delle donne al mondo del lavoro è comunque più facile di quanto fosse un tempo, da questo punto di vista una specie di parità l'abbiamo raggiunta, vengono invece in rilievo delle problematiche diverse, cioè appunto che si attribuiscono alle lavoratrici donne delle caratteristiche che loro ci spacciano per naturali, no? Che sono appunto quelle che dite voi bene, più calme, più gentili, ed è per questo che le donne ricoprono certi mansioni all'interno dell'azienda. Sì, vabbè, intanto insomma da noi appunto a un certo punto è nata l'esigenza di parlarci solo tra lavoratrici, quindi è nato questo collettivo che si è occupato di questioni di genere. Ovviamente tutti i numeri sono stati frutto di un lavoro collettivo tra tutte noi, e ora parlando appunto specificatamente dell'ultimo numero, ovviamente anche da noi, insomma, in ACI Informatica, che da quello che avete sentito insomma è un po' l'isola che non c'è, insomma non saprei come definirci, però ovviamente anche in ACI Informatica noi ad esempio abbiamo l'evidenza del un pochino insomma della diversità del ruolo separato insomma tra lavoratrici e lavoratori. Ad esempio, da uno studio sui dati delle pari opportunità, che appunto ogni azienda è obbligata biennalmente a trasmettere al Ministero delle Pari Opportunità, si evidenziano tutta una serie di cose, ad esempio la disparità di salario tra uomini e donne a parità di livello. E questa cosa ovviamente è in qualunque statistica, in qualunque studio fatto da chiunque, partendo dalla FIOM ma anche dai ministeri, cioè si evidenzia questa disparità economica, anche da noi c'è. E poi diciamo il ruolo si evidenzia proprio ad esempio anche dal fatto che la maggior parte dei part time è donna, perché appunto nella gestione poi familiare i compiti si dividono in un certo modo, quindi il carico del lavoro salariato per la donna magari viene alleggerito, però sempre per andarlo a appesantire col lavoro di cura. E oppure anche nella distribuzione proprio dei tipi di lavoro all'interno dell'azienda. Noi per esempio siamo una società di informatica dove il peso delle lavoratrici è di un terzo rispetto al totale, e anche nella distribuzione insomma delle mansioni si evidenzia ad esempio che in un certo tipo di mansioni, che appunto come si diceva prima sono quelle più di cura, no? Che è la parte amministrativa, c'è invece una preponderanza di lavoratrici rispetto ai lavoratori. Ovviamente non parliamo quasi mai di ruoli dirigenziali, noi tra 29 dirigenti mi sembra che abbiamo ce ne sono una solo mi pare, una dirigente, e non che noi puntiamo al tetto di cristallo, non è quello, però si evidenzia proprio una distribuzione in base a se sei uomo o donna di quello che anche andrai a fare nel posto di lavoro, insomma. Mentre invece a tutte le iniziative, alle vostre lotte, la partecipazione delle donne, di questo un terzo delle lavoratrici, è invece stata diciamo piena, no? Non hanno avuto il problema. Sì, no, dal punto di vista appunto della partecipazione alle lotte, anche ai presidi, ma sia interni ad ACI Informatica, sia appunto di supporto, come diceva prima Elena, di altri posti di lavoro, questa cosa questa disparità non si evidenzia, specialmente per le attività che riguardano le cose fatte in orario di lavoro, perché ecco magari invece per le attività fuori orario di lavoro già si comincia un pochino a differenziare, perché appunto fuori dal posto di lavoro poi c'è il resto del mondo che è organizzato sempre un po' nello stesso modo, anche se devo dire che insomma l'atmosfera, la cultura che uno produce in un posto di lavoro poi comunque volenti o nolenti si ripercuote anche nei nuclei familiari, dove c'è un lavoratore di AC informatica ad esempio. Da noi una delle delegate in questo momento ha comunque ha una figlia, e però è riuscita comunque a liberare il suo tempo per seguire la vertenza che ci ha visto protagonisti in questi mesi scorsi anche al di fuori dell'orario di lavoro. Quindi ecco, diciamo, la cultura che si trasmette si trasmette anche in amici e parenti, ecco, come dire. Sì, ma infatti quando si dice che poi l'auto-organizzazione si radica nella coscienza di ognuno, no? E anche che nel vostro posto di lavoro avete fatto anche da argine a tutta questa fenomeno di femminilizzazione del mondo del lavoro, inteso proprio come sempre maggiore attaccamento ai destini dell'azienda, identificazione del dipendente con l'azienda, di fidelizzazione, no? Forzata, che quindi comporta un metodo di lavoro, no? Che rasenta proprio l'abnegazione, come tu ti comporti da madre dentro casa che devi dare tutto ai tuoi figli, fai la stessa cosa al posto di lavoro. Da voi l'auto-organizzazione serve anche, diciamo, certo, a fare da argine a questo tipo di cultura. Diciamo che la consapevolezza che c'è sempre stata, ma che è cresciuta appunto in questi mesi, è proprio il contrario, cioè il fatto di sapere che di fatto l'azienda si regge sul lavoro nostro, ma noi l'abbiamo anche comunicato, abbiamo anche tentato di comunicarlo ai dirigenti, questo distribuendogli una lettera dicendogli: guardate che se veniamo attaccati noi come lavoratrici e lavoratori, guardate che poi ci rimettete pure voi, perché voi senza di noi non avete senso, cioè perché cioè il valore aggiunto, il plus valore lo creiamo noi col nostro lavoro, insomma. Sì, che il lavoro sia immateriale, nel senso che offri un servizio, non significa che anche la forza lavoro sia immateriale. Everything in this world, and I know my love is mine. Everything belongs to me, oh, belongs to me. Love is a precious thing. Ok, niente, soltanto per dirvi che se andate su www.autoorganizzati.org lì troverete un po' tutto il materiale relativo alle nostre lotte, a Cinformatica in generale. Ciao. Sì, intanto volevamo anche ricordare che siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e questa è la trasmissione I Nomi delle Cose, a cura della Coordinamenta Femminista e Lesbica, e vi ricordiamo i nostri indirizzi. Il nostro blog è coordinamenta con due o .noblogs.org, mentre invece il nostro indirizzo email è coordinamenta@autistiche.org. Ciao a tutte e a tutti. Down on me, but Lord, I want you.